Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Se qualcuno rimpiange i tempi in cui da Bruxelles si poteva dettare la linea a Roma, si poteva telecomandare Roma, e quel tempo lì è finito, Sappiatelo, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, ma lo sappia soprattutto Jean-Claude Juncker, il Presidente della Commissione Europea, perché oggi, dovete sapere, se non già non lo sapete, che c'è stato questo, come possiamo dire, uno scambio piuttosto vivace tra il Presidente della Commissione Europea, per l'appunto Juncker, e il Presidente del Consiglio Italiano Renzi, perché Juncker rivendica la invenzione, diciamo, del concetto di flessibilità, l'introduzione della flessibilità, perché Renzi ha detto, come l'Italia ha avuto il ruolo, perché ha spinto in quel senso, e Juncker, insomma, se l'è avuta piuttosto male, lui vuole il primato. Adesso non si capisce se è nato prima l'uovo o la gallina, poi insomma ne dibatteremo, perché come sempre qui il venerdì, voi sapete, puntata speciale quella del venerdì in cui a un certo punto faccio un bilancio con un commentatore che sempre in genere il nostro vice direttore del Sole 24 Ore, Fabrizio Forché, un bilancio della politica, della settimana politica per lo più italiana, che coinvolge l'Italia, il meglio o il peggio a seconda dei punti di vista. Naturalmente ci sarà anche il tema delle unioni civili. Ieri abbiamo parlato ampiamente con due esponenti del PD, un cattodem, anche se sta stretta questa definizione, la Di Giorgi, e poi Alessandro Zan della parte sinistra invece del PD sul disegno di legge Cirinna. Così travagliato questo percorso, anche se dovrebbe arrivare a fine gennaio. Insomma, comunque Renzi oggi ha ribadito che non intende stralciare la stepchild adoption, anche se lascia la libertà di coscienza. Poi parleremo anche di un caso clamoroso, di una svolta straordinaria che c'è stata in un omicidio di 30 anni fa. Pensate, uno pensa che ormai sia sepolta la storia e chi è morto, eccetera, che chi era il colpevole rimane impunito. Invece, a un certo punto, la giustizia fa capolino. Trovo che sia molto affascinante, al di là della drammaticità, no? Che dopo 30 anni ancora si possa sperare nella giustizia e nel trovare un colpevole. Ci sarà uno scrittore che si è occupato sin dall'inizio di questo caso. Parleremo come sempre di molte altre cose, vi riassumo tra poco la giornata all'inizio della trasmissione, e poi vi sottopongo anche questo fatto a proposito di quello che è successo a Colonia la notte di Capodanno. Ormai lo sapete, le molestie sessuali di massa nei confronti delle donne. Nel comune di Bernheim, nel nord Reno-Vestfalia, è stato vietato l'ingresso di profughi di sesso maschile in una piscina dopo che diverse donne hanno denunciato delle molestie da parte appunto di stranieri di un vicino centro di accoglienza. Il divieto potrebbe essere revocato, dicono gli organizzatori, nel caso in cui il messaggio sull'inviolabilità dei diritti delle donne in Germania venisse adeguatamente compreso, valutazione questa che spetterà ai servizi sociali nei confronti di questi profughi. Cosa ne pensate di questa iniziativa, e pensate che effettivamente possa cambiare la mentalità, la cultura anche di questi immigrati, almeno di quelli, diciamo, che hanno molestato queste donne? 349-238-6666 è sempre il numero per i vostri messaggi, per gli sms, altrimenti comodamente sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi giorno e notte. Ma partiamo con i titoli. Scontro tra Roma e Bruxelles, alta tensione sulla flessibilità tra Juncker e Renzi. Non offenda la Commissione Europea, dice Juncker. Il Presidente del Consiglio risponde: non ci facciamo intimidire. Difesa, schierati 5 aerei AMX nella base di Trapani Birgi. La decisione a seguito dei recenti sviluppi nell'area dei paesi del Nord Africa e il deterioramento delle condizioni di sicurezza. Petrolio, il greggio in calo, venerdì nero per le borse europee, Milano meno 3%. Germania, nuotatrici denunciano molestie e il comune di Bernheim vieta la piscina ai profughi di sesso maschile. Il delitto di Lidia Macchi, clamorosa svolta dopo 30 anni, arrestato l'assassino, era un suo compagno di liceo che prima la violentò e poi la uccise a coltellate. La 35enne americana uccisa a Firenze, oggi funerali con i genitori e l'affetto della città. Calcio, scontro tra Nazionale e Lega, senza giocatori impegnati nelle coppe, annullato da Conte lo stage di febbraio. E passiamo quindi subito dallo scontro, o se vogliamo dire in termini più mitigati, botta e risposta tra il Presidente della Commissione Europea Juncker e il Presidente del Consiglio Renzi. Renzi non deve offendere la Comunità Europea, ha detto oggi Juncker, che ha annunciato una visita a febbraio in Italia per curare i rapporti con Roma. Dall'Italia solo un atteggiamento costruttivo, ha replicato Renzi. Il premier ministro italiano ha torto di vilipendere. Soppesa attentamente le parole, Jean-Claude Juncker definisce amico Matteo Renzi prima di lanciare l'affondo. Ritengo che il primo ministro italiano abbia torto a insultare e criticare la Commissione a ogni occasione, non vedo perché lo faccia. L'Italia non dovrebbe criticarla troppo. Noi abbiamo introdotto la flessibilità contro la volontà di alcuni stati membri che molti dicono dominare l'Europa. Esplode così a inizio anno la tensione che cova da mesi sull'asse Roma-Bruxelles, tensione nascosta con una difficoltà già dopo il primo affondo di Renzi contro Bruxelles lo scorso ottobre in un'intervista a Radio 24. Lo sfogo di Juncker non si limita a un contrattacco puro e semplice, ma deborda in un poco elegante attestato di paternità dell'oggetto al centro del contendere, la flessibilità sui conti pubblici. Sono stato molto sorpreso che alla fine del semestre di presidenza italiana Renzi abbia detto che è stato lui ad aver introdotto la flessibilità, perché sono stato io, dice Juncker, e per non lasciare spazio a dubbi ribadisce, io sono stato. Poi annuncia una visita a Roma entro fine febbraio per un faccia a faccia forse chiarificatore e certamente necessario, in vista di una roadmap ad alta tensione che porterà a maggio alle raccomandazioni di Bruxelles sui conti pubblici nazionali dopo il rinvio del giudizio su quelli italiani. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Non ci facciamo intimidire, l'Italia merita rispetto, replica così Matteo Renzi a Jean-Claude Juncker in un'intervista al TG5. Il Presidente del Consiglio ricorda quindi che la flessibilità da parte dell'Unione Europea è arrivata solo dopo molte insistenze da parte dell'Italia. Da noi sempre un atteggiamento costruttivo, aggiunge il Ministro dell'economia Padoan. Il governo italiano non ha nessuna volontà di offesa di nessuno, né tantomeno della Commissione o dei suoi membri. I rapporti, al di là di quello che può emergere, rimangono cordiali e costruttivi. Quanto alla flessibilità, dice ancora Padoan, è evidente che è stata la Commissione europea a introdurla, ma ricordo che si è arrivati là con il dibattito che è stato sviluppato durante il semestre di presidenza italiana. Critiche a Renzi intanto dalle opposizioni, lui e Juncker facce di bronzo. Dice Salvini, Renzi usa l'Europa per risolvere i suoi problemi, aggiunge Brunetta, rappresentano le lobby, una manfrina inutile, dice la Meloni. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E adesso una notizia che è arrivata poco fa riguardo alla difesa. Nella base di Trapani Birgi sono stati schierati in Sicilia 5 aerei AMX. La decisione, fa sapere lo Stato Maggiore, è maturata a seguito dei recenti sviluppi nell'area dei paesi del Nord Africa e del conseguente deterioramento delle condizioni di sicurezza. Sono però per il momento in assetto di ricognizione e non di bombardamento, a quanto precisano fonti militari. E poi le borse, chiusura in forte calo per Piazza Affari, meno 3% sulla scia delle altre piazze finanziarie, strette tra i timori per la debolezza dell'economia cinese e il calo delle quotazioni del prezzo del petrolio, sceso a $29,80 a New York. Banca Italia intanto conferma le stime di ottobre sul PIL, il prodotto interno lordo, la ricchezza del paese, pari a una crescita dello 0,8% nel 2015 e dell'1,5% nel 2016-2017. La ripresa prosegue gradualmente, scrive Palazzo Coca nel bollettino, anche se restano rischi significativi legati soprattutto al rallentamento delle economie emergenti. Estero, in Germania esplode un nuovo caso di molestie nei confronti delle donne da parte di cittadini immigrati e profughi, mentre in Siria, a Madaya, l'emergenza umanitaria è sempre più grave. Madaya, la città che muore. La città assediata da ormai 6 mesi dalle forze lealiste non ha più cibo né medicine. Nell'ultimo mese sono morte 32 persone di fame. Oggi l'ultima vittima, un ragazzino di 16 anni. Lo dice l'UNICEF, lo certifica il Programma Alimentare Mondiale dell'ONU. Da lunedì ad oggi sono entrati, dopo mesi di isolamento, 2 convogli di aiuti umanitari. Ma la situazione è di grave emergenza per almeno 400 persone che non sarebbero più in grado di attendere un giorno di più. Fuggire dalla Siria non sembra un'idea tanto assurda vista da qui, ma una volta fuori bisogna fare i conti con le paure degli altri. Dopo gli episodi di molestie e violenze sessuali di Colonia, oggi infatti la notizia che il municipio tedesco di Borenheim, 25.000 abitanti, ha proibito ai richiedenti asilo di sesso maschile e maggiorenni di recarsi nelle piscine comunali, dopo aver ricevuto le lamentele di 6 donne riguardo a presunte molestie da parte di migranti. Una notizia che si accompagna al sondaggio della rete pubblica ZDF, secondo cui il 60% dei tedeschi ritiene che la Germania non riuscirà a far fronte a 1.100.000 profughi entrati nel solo 2015. Si tratta di ben 14 punti in più rispetto a un identico sondaggio effettuato a dicembre, prima dei fatti di Colonia. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora invece andiamo sulle questioni italiane, sulla politica, perché una notizia, una dichiarazione di Renzi di poco fa, a proposito della pubblica amministrazione, dei dipendenti. Sapete che molti anche di voi scrivono, eh sì, noi privati, il controllo delle mail, altre cose, le ore che lavoriamo, invece per gli statali, no, sempre gettare appunto il... gettarsi contro i dipendenti pubblici. Renzi che cosa ha detto? Che i dipendenti fannulloni saranno licenziati in 48 ore e rischiano anche i dirigenti. Sentiamo. Non li chiamerei fannulloni, li chiamerei truffatori, quelli che vanno, timbrano e poi si scappano. Abbiamo visto delle immagini qualche mese fa pazzesche, quelli che a Sanremo andavano in mutande, o anche in questi giorni, in queste ore, alcune trasmissioni continuano a mostrare delle persone, dipendenti pubblici, che timbrano e se ne vanno. Bene, questi qui stanno distruggendo la credibilità anche di tutti gli altri, della stragrande maggioranza che lavora per bene. E allora pugno di ferro, sì, mercoledì in Consiglio dei Ministri andrà la nostra proposta di norma, chi fa così viene licenziato entro 48 ore e se il dirigente non procede al licenziamento rischia lui stesso di essere mandato a casa. E intanto Roberto Giachetti, deputato PD, vicepresidente della Camera, oggi ha annunciato l'intenzione di partecipare alle primarie del centrosinistra per la candidatura a sindaco di Roma. Giachetti è sostenuto dal segretario del PD Renzi, che ha detto che intende iniziare il suo lavoro dalle periferie, ha detto sarà un impegno gravoso. Non cambia intanto il testo di legge sulle unioni civili nonostante le proteste dei centristi e dei cattolici del PD. Nonostante le divisioni, la maggioranza del Partito Democratico conferma che il testo della legge sulle unioni civili non cambierà. Resta quindi la stepchild adoption, cioè la possibilità di adottare il figlio del partner in una coppia omosessuale. Un gruppo di parlamentari democratici di area cattolica ieri aveva chiesto di stralciare la norma dal testo, proponendo come alternativa l'affido rafforzato. A fine gennaio, invece, la legge Cirinna approderà così com'è a Palazzo Madama e ai senatori Dem verrà lasciata libertà di coscienza. Tra i cattolici Dem restano però i malumori. Fioroni fa sapere che non voterà a favore della stepchild adoption e annuncia che parteciperà al Family Day, la manifestazione organizzata a Roma il 30 gennaio dalla galassia delle associazioni del mondo cattolico contrarie alla legge sulle unioni civili. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Il governo ha approvato oggi poi un pacchetto di depenalizzazioni. Sentiamo di cosa si tratta. Dalla cannabis per uso medico alla guida senza patente, dall'ingiuria agli atti osceni in luogo pubblico, il governo abroga una serie di reati derubricandoli a illeciti amministrativi. La sanzione penale viene dunque sostituita da una multa molto più salata che funga da deterrente. Depenalizzata in particolare la violazione delle prescrizioni sulla coltivazione della cannabis, ma solo per chi è già autorizzato a farlo a fini terapeutici. Fuori da questa cornice coltivarla resta reato. Altro capitolo, il codice della strada: non sarà più reato guidare senza patente o con documento scaduto, la violazione diventa illecito, sanzionabile con una multa fino a 30.000 euro e confisca del mezzo. Resta la sanzione penale in caso di recidiva. Altre depenalizzazioni riguardano il reato di atti osceni in luogo pubblico, l'abuso della credulità popolare, le rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive, il noleggio di materiale coperto da copyright. Saltata invece la depenalizzazione del reato di immigrazione clandestina, troppe polemiche, se ne parlerà più avanti. Dal governo anche l'intenzione di accelerare sui licenziamenti per i cosiddetti furbetti del cartellino che lavorano nella pubblica amministrazione. I decreti sono attesi la prossima settimana. Tra le ipotesi a cui si lavora, quella di procedere con una sospensione cautelare del dipendente colto in flagrante. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Adesso parliamo di cronaca svolta, vi dicevo, dopo quasi 30 anni nell'omicidio di Lidia Macchi, la studentessa di 21 anni trovata morta il 7 gennaio 1987 in un bosco in provincia di Varese. È stato un suo compagno di classe, l'ha stuprata e uccisa per quelli che sono stati definiti motivi religiosi. Poi ne parleremo ampiamente con uno scrittore che ha seguito questa storia sin dagli inizi e ne ha scritto anche nei suoi libri. Sempre per la cronaca, l'omicidio della 35enne americana Ashley Olsen. Oggi sono stati funerali a Firenze, con era presente anche la famiglia, i genitori nel loro dolore, e anche c'è stato molto affetto da parte della città. Per la musica, un lutto: è morto all'età di 73 anni il marito manager della cantante Céline Dion, René Angelil. L'annuncio è stato dato dalla stessa popstar. Fu proprio Angelil a scoprire il talento di Céline Dion, colpito dalla sua voce. Pensate, ha acceso un mutuo sulla sua casa per produrre l'album d'esordio della cantante. Per chiudere lo sport, calcio, scontro tra la nazionale di calcio e la Lega di Serie A, che oggi ha esentato i giocatori di Juve, Roma, Fiorentina, Lazio e Napoli, le italiane in coppa, dal partecipare allo stage azzurro previsto tra l'8 e il 10 febbraio. Furibondo il CT azzurro Conte, che aveva chiesto di fissare la finale di Coppa Italia prima della fine del campionato e che sperava di poter disporre di tutti i giocatori per lo stage, immediata la reazione. Azzerato lo stage perché, ha fatto sapere, non ha senso una 3 giorni monca. E poi la pallanuoto femminile, Sette Rosa travolge la Croazia 31-2, terza vittoria agli europei in corso a Belgrado della nazionale femminile. Le azzurre poi torneranno in vasca domenica alle 17.45 contro la Serbia. Qual è la notizia extra oggi? È questa, proprio un segno dei tempi, di come le cose sembrano andare in una direzione e poi anche in quella opposta. Per la prima volta in Spagna una consigliera comunale musulmana velata ha celebrato un matrimonio civile fra due sposi omosessuali. Pensate la scena, con da una parte quello che sembra, insomma, cultura tempi lontani, passati, no? Una donna velata musulmana che sposa però due sposi omosessuali. Successo a Badalona, la terza città della Catalogna, governata dal giugno scorso da una coalizione di sinistra di cui fa parte Guaniem, la lista locale di Podemos. L'eletta islamica del partito Viola, Fatima Taleb, riferisce il quotidiano catalano Directe, è giunta a Badalona dal Marocco quando aveva 22 anni. Direi che adesso possiamo passare tra pochissimo agli ospiti, a un bilancio della politica della settimana, ci saranno molti aspetti interessanti. Intanto volevo vedere, prima della viabilità, alcuni vostri messaggi tra la pagina Facebook di Effetto Notte e gli sms al 349-238-6666. Scusate, a proposito di quello che è successo in questa città della Germania, del Nordrhein-Westfalia, Bernheim, dove è stato vietato l'ingresso ai profughi di sesso maschile dopo che alcune donne hanno denunciato molestie da parte di stranieri di un vicino centro di accoglienza. Il divieto, dicono dal comune, potrebbe essere revocato solo nel caso in cui il messaggio sull'inviolabilità dei diritti delle donne in Germania venisse adeguatamente compreso da questi uomini. Saranno i servizi sociali a valutarlo. Cosa ne pensate? Giorgio scrive: una cosa che mi viene in mente e che esula da un giudizio di merito è che altri paesi europei stanno prendendo decisioni molto concrete, tralasciando le pregiudiziali politiche, qualcosa di molto lontano da ciò che contraddistingue il nostro paese nel bene e nel male. Alberto: questa gentaglia deve fare dietrofront e tornarsene a casa, vadano nelle Arabie a esprimere le loro voglie di stupro e di conquista. Fabrizio: fanno bene adesso per paura di essere chiamati razzisti, bisogna lasciarli fare, ma dico, sei ospitato, mantenuto e pagato anche se non si sa ancora se hai diritto alla protezione, poi ti permetti di fare queste cose, vuol dire che ci credono degli stupidi da poter usare. 349-238-6666. Continuate anche con la pagina Facebook di Effetto Notte. Ci sentiamo. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Ancora un occhio ai vostri messaggi, dice Costantino: bravi, bravi tedeschi con le loro iniziative. 349-238-6666, per i messaggi ve lo ricordo sms e poi la pagina Facebook di Effetto Notte, per dire qual è la vostra opinione su questa iniziativa di una città tedesca dopo i fatti di Colonia, ma anche dopo quello che è successo lì direttamente in una piscina di questa città. Le donne hanno denunciato molestie da parte di profughi che erano in un vicino centro di accoglienza, allora è stata vietata la presenza, l'ingresso di profughi di sesso maschile, questo fino a quando i servizi sociali non verificheranno che hanno capito che in Germania c'è l'inviolabilità delle donne. Adesso tra poco faremo un bilancio della politica della settimana, ma adesso facciamo anche un bilancio prima di tutto dei titoli di oggi. Scontro Juncker-Renzi, alta tensione sulla questione della flessibilità. Chi l'ha inventata, chi l'ha introdotta, chi lo sa? Ne parleremo anche di questo tra poco. E poi Renzi che dice in serata: pugno duro anche sulla pubblica amministrazione, licenziati gli assenteisti. E poi petrolio e Cina fondano i mercati, il Brent sotto i $30, l'Europa impicchiata anche con Wall Street. L'Italia che schiera a Trapani 4 aerei AMX per stare vigili, insomma, su quello che sta succedendo sul Nord Africa. Lo Stato Maggiore dice ricognizione, non bombardamento. La città tedesca di cui abbiamo appena parlato, che vieta la piscina ai profughi maschi dopo le molestie. Poi ancora tragedia del mare, 6 bambini annegati nell'Egeo. E a Madaya in Siria un ragazzo muore di fame, ormai è una città dove c'è una fortissima denutrizione. Al via la depenalizzazione da patente all'ingiuria alla cannabis, questo decreto del governo. E poi Family Day in piazza il 30 contro il disegno di legge Cirinna, che prosegue in questo percorso direi molto travagliato. E allora saluto come sempre venerdì Fabrizio Forché, vice direttore del Sole 24 Ore. Ciao, buonasera. Ciao Fabrizio. Allora, direi che sostanzialmente questa settimana i temi della politica italiana, i temi centrali, sono tre. Gli sviluppi sul caso del comune di Quarto, ce ne sono ulteriori, anche se insomma il venerdì scorso già avevamo detto molto su questo. Poi, dicevo, l'impervio, travagliatissimo percorso del disegno di legge Cirinnà sulle unioni civili e poi, cosa vogliamo definirlo, lo screzio tra Bruxelles e il governo italiano. Vuoi prima la busta numero uno, numero due o numero tre? Fabrizio. Io partirei dalla 3 per importanza. Ho la sensazione che rispetto a Quarto i rapporti tra l'Unione Europea e l'Italia siano un po' più determinanti per l'Italia, insomma, per la vita poi di tutti noi. E allora, Fabrizio, se ti interrompo subito mentre stai per dire la tua opinione, scusami. Facciamo risentire un attimo Renzi che cosa ha detto. Ci abbiamo anche forse Juncker che dice io l'ho inventata la flessibilità. È abbastanza buffa questa storia, almeno così vista semplicisticamente dal di fuori. Sentiamo prima Juncker. L'Italia profitta di tutte le flessibilità qui ont été introduites. J'étais très surpris à la fin de la présidence italienne que Matteo Renzi ait dit au Parlement européen que c'était lui qui avait introduit la flexibilité. C'était moi. Non siete lui, siete moi che ho introdotto io la flessibilità, dice Juncker. E poi Renzi si è un po' contrariato di questa intenzione di attribuirsi Juncker la questione, l'introduzione della flessibilità. Sentiamo Renzi. Se qualcuno rimpiange i tempi in cui da Bruxelles si poteva dettare la linea a Roma, si poteva telecomandare Roma, quel tempo lì è finito, La stagione in cui l'Italia doveva fare i compiti a casa è finita, noi abbiamo fatto le nostre riforme, ora chiediamo rispetto per tutti. Quindi noi basta telecomandati, vogliamo sentire anche Padoan che ha cercato di mediare tra i due, sentiamo. Sulla questione della flessibilità è evidente che è stata la Commissione ad introdurre una comunicazione sulla flessibilità, ma io ricordo che si è arrivati a questa decisione della Commissione, che noi riteniamo molto importante, anche a seguito del dibattito che è stato sviluppato in sede di presidenza italiana dell'Unione Europea. Insomma, l'abbiamo fatto tutte e due, via questa flessibilità, è importante che si decida chi l'ha introdotta, Fabrizio Forché, o qual è la questione in ballo? No, non credo sia appunto questa questione determinante, anche se credo di poter fare mie nostre le parole di Padoan. Credo abbia ragione Padoan quando dice è evidente che sarà introdotta quando c'era Juncker Presidente della Commissione Europea, è evidente che la introduce in qualche modo la Commissione Europea, quindi Juncker. È vero che l'Italia aveva spinto molto, aveva lavorato molto durante il suo semestre per introdurre questi meccanismi di flessibilità sul patto europeo, e quindi c'è anche un merito italiano su questo. Comunque è chiaro che al di là dell'attribuzione c'è un problema molto concreto che riguarda l'Italia, cioè la possibilità innanzitutto di vedersi riconosciuta questa flessibilità ora tra marzo e aprile, quando la Commissione Europea valuterà se i margini che noi ci siamo presi con la legge finanziaria effettivamente eravamo nella posizione di poterli prendere, e da questo dipendono svariati miliardi di eventuale manovra correttiva che dobbiamo fare se non ci viene riconosciuta quella flessibilità. Ma soprattutto c'è un problema sulla prossima manovra. Renzi sarà chiamato a fare la legge di stabilità nell'autunno dell'anno prossimo, o probabilmente senza poter usufruire di questa flessibilità di cui ha goduto quest'anno, e questo gli rende tutta l'operazione molto più difficile, perché qui forse il discorso sarà un po' più complicato, perché ci sono le famose clausole di salvaguardia per la quale l'Italia parte già da dover coprire 20 miliardi per evitare un aumento di tasse, e senza la flessibilità questa è un'operazione particolarmente difficile. Per cui molto credo di queste tensioni tra l'Italia e l'Europa di queste settimane sono anche un lavoro preparatorio in vista di un cambiamento perlomeno nelle regole europee per poter evitare all'Italia una manovra molto difficile nel prossimo anno. Bene, questo era uno dei temi centrali, l'ultimo è sicuramente importantissimo come dicevi tu. Adesso invece passiamo alla questione delle unioni civili, che è importante per vari aspetti, innanzitutto perché riguarda la vita di tante persone, poi perché bisogna capire se l'Italia vuole arrivare ai livelli standard da un punto di vista dei diritti civili degli altri paesi europei e non solo europei, e poi anche una questione di tenuta del governo, Fabrizio. Allora io ti farei sentire, siccome diciamo la battaglia non è soltanto tra conservatori e progressisti in senso diciamo più opposto politicamente a livello parlamentare, ma anche all'interno dello stesso Partito Democratico. La vera frattura è lì dentro, perché ieri i Cattodem, diciamo la parte cattolica del Partito Democratico, ha presentato come prima firmataria la senatrice Di Giorgi, che era qui ospite a Effetto Notte, un emendamento all'articolo 5, quello sulla stepchild adoption, cioè sulla possibilità all'interno di una coppia dello stesso sesso di adottare il partner, di adottare il figlio biologico del partner. La Di Giorgi spiega che il loro emendamento riguarda l'affido rafforzato, così lo chiama. Allora le ho chiesto di spiegare in cosa consista, sentiamo. Noi pensiamo di dare a tutti coloro che hanno intenzione di svolgere la funzione di genitore, che sono compagni di qualcuno che ha un bambino, riteniamo di poter dare loro la possibilità di fare questo attraverso un nuovo istituto che si chiama affido rafforzato, ossia noi vogliamo che si possano svolgere tutte le funzioni nei confronti di questo bambino, dall'accompagnare a scuola, all'ospedale, tutto quello che un genitore può fare. A 18 anni questo affido, se il minore, se il bambino, il ragazzo a quel punto lo vorrà, potrà trasformarsi in adozione. E poi gli ho chiesto allora se riteneva che ci fosse una differenza tra le coppie, intanto qual era la differenza, ecco, tra l'affido rafforzato e la stepchild adoption, e poi se questo comportasse comunque poi di conseguenza anche una differenza all'interno di una coppia di uomini o di donne. Sentiamo. Un uomo per avere un bambino è evidente che deve ricorrere alla maternità surrogata, perché non importa che spenda parole su questo, non si può avere un bambino in altro modo. Per una donna naturalmente è diverso, perché la donna può rimanere incinta evidentemente. Non c'è la figura paterna, ecco, quindi c'è soltanto due mamme. Il bambino. Quindi due mamme, se queste donne che si mettono insieme non hanno un figlio, una delle due a un certo punto ha una gravidanza, l'altra ha questo affido rafforzato? La risposta è sì, assolutamente questo affido rafforzato. E a questo punto ho chiesto, ma allora quali sono le differenze tra stepchild adoption e affido rafforzato? Diciamo che se questo bambino c'è, e quindi il bambino, di questo bambino si può occupare sia il padre o la madre naturale, in coppie diverse naturalmente, e questo bambino per quanto riguarda la legge attualmente in discussione può essere adottato dal partner. Per quanto riguarda la proposta che facciamo, noi invece riteniamo che sia più utile per il bambino avere essere affidato. Adesso, al di là che sia chiaro o no, poi mi direi tu, Fabrizio Forché, questa differenza, la senatrice Di Giorgi, le ho chiesto se Area Popolare era d'accordo, quindi il nuovo centrodestra, perché le ho detto che per esempio Sacconi, insieme a un altro senatore di Area Popolare, aveva scritto che era insomma una sciocchezza, un imbarbarimento, questo affido insomma rafforzato, e lei ha detto no, ma sono solo diciamo posizioni personali, perché siamo convinti di riuscire a trovare una mediazione con il nuovo centrodestra. Però poi proprio in quei minuti la mia collega Raffaella Calandra ha sentito Alfano su questo tema, sentiamolo. La cosa che non capisco e non condivido è perché questo giusto riconoscimento di diritti di singoli soggetti in coppie anche dello stesso sesso poi sia finito per diventare un ragionamento tutto fondato su che cosa? La adottabilità dei figli. Per me la cosa migliore, il tema delle adozioni, resti fuori. Quindi NCD si oppone? Sì. Il disegno di legge Cirin resta una sorta di fotocopia del matrimonio, noi non possiamo votare di sì. Noi diciamo di sì a nuovi diritti e più forti diritti per le coppie, diciamo di no alla equiparazione tra unione civile e matrimonio, diciamo di no all'adozione dei bambini da parte di persone dello stesso sesso, perché ogni bambino ha diritto ad avere un papà e una mamma. Quindi un doppio no in realtà, senatrice Di Giorgi, sulla stepchild adoption, ma anche paragonarlo al matrimonio, dice Alfano. Beh, di fatto, ma non è equiparato al matrimonio, perché all'inizio la prima versione del testo Cirinnà effettivamente equiparava al matrimonio. Invece qui c'è già stato un grande lavoro che abbiamo fatto nelle settimane, nei mesi scorsi, e quindi su questo non c'è più alcun problema. Così pare. Poi oggi Renzi ha ribadito la linea, andiamo avanti sulle adozioni. Come si procederà, Fabrizio Forché? Ma Renzi dice andiamo avanti, ma dà anche nello stesso tempo libertà di voto ai suoi parlamentari. Questo evidentemente fa pensare che Renzi è consapevole che la maggioranza su questo è molto molto a rischio. Anzi, secondo i conti che facevamo oggi in redazione, la maggioranza non c'è, continua a non esserci, perché come neanche se ci fosse il Movimento 5 Stelle, poi il voto è segreto, tra l'altro, potrebbe esserci delle sorprese. Con il Movimento 5 Stelle già arrivi al limite, probabilmente potresti non farcela anche con il Movimento 5 Stelle, per cui politicamente davvero è una situazione difficile. Come dicevi giustamente tu, all'interno del partito di maggioranza, del PD, che c'è la divisione maggiore, per cui diventa tutto davvero molto difficile. Insomma, qui la divisione non è tra partiti, chiaramente, tra una visione dei diritti civili che è molto diversa anche all'interno dei partiti, e il Partito Democratico è un partito ancora molto anomalo sotto molti aspetti e ha sensibilità diverse, culture molto diverse al suo interno, no, in particolare su questi aspetti, e per cui su questo disegno di legge si stanno riproducendo appunto queste divisioni, e io credo che allo Stato la maggioranza non c'è. Malgrado che Renzi spinge a favore sicuramente, ma il dare libertà di voto secondo me testimonia che lui non è per niente convinto di portarla a casa. Su questo, insomma, aspetteremo fine gennaio a questo punto. Grazie Fabrizio Forché, buon fine settimana. Grazie. Ciao Fabrizio. Buonasera. Prima di lasciarci per questa breve pausa, come sempre di ricreazione, vediamo ancora i vostri messaggi sull'iniziativa di un comune della Germania dopo le molestie delle nuotatrici in piscina da parte di profughi di un centro vicino di accoglienza, che hanno deciso di vietare l'ingresso ai profughi di sesso maschile. Roberto dice: non sono integrabili tutti fuori. Patrizia: in merito al divieto a far entrare gli uomini, credo che debba essere specificato che possono entrare solo quelli che sono lì con moglie e bambini, e deve essere un'azione comune dell'Europa, non un'iniziativa di qualche cittadina e basta. Il problema è comune. Continuate sulla pagina Facebook di Effetto Note e anche con gli sms al 349-238-6666. Ci sentiamo tra poco per parlare di questa svolta clamorosa nell'omicidio di Lidia Macchi di 30 anni fa. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E rieccoci, Roberto Giordano sempre con voi, come sempre puntualmente tutte le sere dalle 21 alle 22 con Effetto Notte. C'è anche la pagina Facebook del programma di Effetto Notte, dove potete continuare a scrivere i vostri messaggi, le vostre opinioni giorno e notte. Poi c'è il numero per gli sms, che è il 349-238-6666. Stasera vi ho chiesto, fra le tante notizie, di commentare questa che riguarda questa città della Germania, dove alcune donne nella piscina sono state molestate da profughi di un vicino centro di accoglienza, e quindi è stato posto il divieto dal comune ai profughi di sesso maschile di entrare in questa piscina, a meno che poi col tempo non capiscano che in Germania vige l'inviolabilità delle donne, e quindi la parità, l'uguaglianza tra donne e uomini. C'è Cristiano che scrive: inibire condotte e adottare misure in merito a seguito degli episodi gravissimi di Colonia è sacrosanto. Se il filtro dei servizi sociali è davvero incisivo e pregnante, il monito può senz'altro trovare riscontri. Poi un altro ascoltatore da Montebello Vicentino scrive: tedeschi padroni a casa loro, bravi, imparate italiani. Poi invece sulle unioni civili un'ascoltatrice o ascoltatore, non si firma, dice: sono un problema del mondo, le unioni civili può essere risolto solo dall'ONU insieme ai rappresentanti di tutte le religioni, qualunque buona legge di un singolo stato non va bene perché genera problemi nei trasferimenti. Cioè intende l'ascoltatrice o ascoltatore quando poi magari ci si sposa una coppia dello stesso sesso in uno stato, oppure ha un figlio in uno stato, si trasferisce nell'altro, la legge non vale. Però mi sembra che siano abbastanza maturi gli stati per farlo in casa proprio, senza bisogno che intervenga l'ONU, che già ha difficoltà a intervenire in situazioni molto più di crisi in altre aree. Continuate con i vostri messaggi, intanto vi ricordo quali sono le notizie più importanti della giornata, e tra poco passiamo a questa svolta dopo 30 anni nel caso di un omicidio. Scontro tra Roma e Bruxelles, alta tensione sulla flessibilità tra Juncker e Renzi. Non offenda la Commissione europea, dice Juncker, il Presidente del Consiglio risponde: non ci facciamo intimidire. difesa schierati 5 aerei AMX nella base di Trapani Birgi. La decisione a seguito dei recenti sviluppi nell'area dei paesi del Nord Africa e il deterioramento delle condizioni di sicurezza. Petrolio, il greggio in calo, venerdì nero per le borse europee, Milano meno 3%. Germania, nuotatrici denunciano molestie, il comune di Bernheim vieta la piscina ai profughi di sesso maschile. Il delitto di Lidia Macchi, di cui parleremo tra pochissimo, clamorosa svolta dopo 30 anni. La 35enne americana uccisa a Firenze, oggi funerali con i genitori e l'affetto della città. E per il calcio, scontro tra Nazionale e Lega, senza giocatori impegnati nelle coppe, annullato da Conte lo stage di febbraio. E siamo quindi a questo incredibile caso dell'omicidio di Lidia Macchi. Dico incredibile perché quando ormai è passata praticamente una vita, 30 anni sono una vita, uno che era nato in quel momento, oggi è una persona adulta, è un caso terribile che uno potrebbe pensare sprofondato ormai nel dimenticatoio, tranne per chi conserva il dolore di quel fatto, e chi ha compiuto il delitto ritiene ormai dopo una vita, dopo 30 anni, di essere impunito, che tutto sia sepolto insieme alla persona morta. E invece a un certo punto, dopo 30 anni, può capitare, come vi ricordate, è successo forse un mese fa con un presunto boss, dopo 30 anni, che faceva il panettiere, è stato poi arrestato e portato in carcere perché reo di aver ucciso il procuratore Caccia. Bene, in questo caso invece si tratta dell'omicidio appunto di Lidia Macchi, che era una studentessa di 21 anni che fu trovata morta, martoriata con 29 coltellate in un bosco in provincia di Varese il 6 gennaio, morì il 6 gennaio, fu trovata il 7 gennaio 1987, non fu trovato il colpevole, nessuno fu condannato per quel delitto, anche se quell'omicidio fu il primo caso in Italia in cui si ricorse al DNA, anche se poi il materiale, le tracce vennero inviate a un laboratorio inglese. E ora c'è questa svolta davvero clamorosa dopo 30 anni. Un uomo, Stefano Binda, di 49 anni, è stato arrestato questa mattina, sarebbe un ex compagno di liceo della vittima. Binda era già stato coinvolto nella primissima fase delle indagini sul delitto Macchi, poi però grazie alla complicità di un amico ebbe un alibi e la questione finì lì. Ne parliamo con Gianni Spartà, che è giornalista e scrittore editorialista della Prealpina e autore di diversi libri, tra cui l'ultimo che è proprio tutta un'altra storia in cui parla anche di questa vicenda. Gianni, buonasera. Buonasera a chi ci sta ascoltando e a te. Gianni, ci dici, la storia è molto lunga, sono 30 anni di... però come la riassumeresti anche i fatti salienti? Ma te la posso riassumere così. Qui siamo passati in 30 anni dalle... coltellate, 29 come dicevi tu, insospettabili, che sarebbero stati inferti sul corpo di Lidia da un sacerdote, amico della ragazza, un sacerdote che per 28 anni è rimasto presunto innocente perché il test del DNA a cui facevi riferimento fallì sciaguratamente, devo dire, più che clamorosamente. Poi siamo passati alle coltellate non sospettate a tempo debito, quelle che sarebbero state inferte da un killer oggi condannato all'ergastolo per il delitto famoso delle mani mozzate. Aveva quest'uomo, Giuseppe Piccolomo, aveva tagliato le mani alla persona che aveva ucciso. Adesso siamo alle coltellate imbarazzanti, inferte da un amico di Lidia, da uno che frequentava come lei Comunione Liberazione, da uno che credo Lidia si potesse fidare. E invece, stando alle accuse, che sono tutte da provare, poi se mi fai dire qualcosa, certo, sono tutto da provare, perché adesso siamo a una perizia calligrafica che dopo 30 anni riconosce in Stefano Binda l'autore di questa lettera inviata alla famiglia e recapitata il giorno dei funerali di Lidia, era il 9 gennaio del 1987. Ed è una prosa ispirata al Vecchio Testamento, a un brano di Isaia del Vecchio Testamento, in cui si parla di velo di tempio strappato, che potrebbe essere il rapporto sessuale che l'uomo ha avuto con la ragazza, il primo rapporto. Perché l'avrebbe violentata, comunque risulta, almeno da quello che i PM... Violentata non lo so, i medici legali la violenza ai tempi l'avevano esclusa, avevano parlato del primo rapporto sessuale e di un rapporto consenziente. Come si faccia poi a stabilire se un rapporto è consenziente o non consenziente? Purtroppo adesso che è morta, diciamo, dopo 30 anni. No, ma poi vabbè, insomma, ecco, vabbè, secondo me ci fu anche leggerezza nel dare queste notizie. Comunque ecco, è un caso che ha cambiato pelle tre volte. anche se per 28 anni è rimasto nella naftalina. Senti, questa secondo il PM lui l'avrebbe voluta punire perché si era, mi dà fastidio anche dire questa cosa, perché si era concessa troppo facilmente, come nella mentalità di alcuni uomini, non di tutti. Ma questo insomma è quello che c'è scritto nell'ordinanza, ma il problema che io pongo adesso è ora? Mm. È ora, cioè lui non ha confessato. C'è questa perizia calligrafica, ma non ci sono più, non dimentichiamocelo, gli undici vetrini sui quali erano stati raccolti tracce di liquido seminale e sangue prelevati dal corpo della ragazza, e quindi voglio vedere adesso anche come si farà ad arrivare alla prova regina, ecco, se non ci sarà una confessione, che magari potrebbe anche esserci, perché questi 11 vetrini sono stati, uso di nuovo la parola, sciaguratamente distrutti come corpi di reato di cui si pensava di non dover più usufruirne, e sono stati distrutti, quindi manca la prova, la possibilità di un confronto oggi, a meno di un confronto di tipo scientifico, posto che del test del DNA viene considerato, secondo me erroneamente, la prova regina, la prova che capace con la quale si può incastrare un assassino. Quindi ti sento piuttosto diffidente, quindi no, Gianni. Non sono diffidente su queste ipotesi. Voglio dire, sulla base che io seguo questo caso dal 1987 e ne ho viste tante di voci ripeto, siamo passati dal prete all'ergastolano. Ma senti, ma quella lettera delirante sulla quale si è fatta questa perizia grafologica è proprio di Stefano Binda, comunque? Chi lo sa? Chi lo sa? Non lo so se l'ha scritta lui. Sicuramente non l'ha scritta un volgare killer ergastolano. Sicuramente quella lettera l'ha scritta una persona colta, una persona con un grande sentimento religioso, e una persona che in qualche modo voleva comunicare alla famiglia una richiesta di perdono, insomma. Quindi ci sta l'amico che manda questa lettera tutta da decriptare, perché è una lettera piena di riferimenti, una lettera che finisce con simbolo sacro dell'ostia consacrata e con la parola amen, insomma, è davvero una lirica, insomma, scritta sicuramente da una persona molto colta, e dicono che questo Stefano Binda fosse colto, addirittura è considerato dai suoi stessi professori superiore come intelligenza, come sensibilità alla media, adesso a 49 anni. Gianni Spartà, ti ringrazio di aver ricostruito tutta questa vicenda, tu che l'hai seguita appunto da vicino, e si ritrova questa vicenda nel tuo libro Tutta un'altra storia, per chi la volesse leggere. Vediamo a questo punto, dopo 30 anni, quali sviluppi avrai, magari ci risentiamo volentieri. Grazie Gianni. Ma grazie a voi. Grazie, ciao, buona serata e buon lavoro, viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Vedo ancora i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666. Adesso però cominciamo un po' a correre, perché dobbiamo raccontare ancora diverse cose. E riprendiamo allora dai titoli, dei fatti principali, con Renzi che ha annunciato in serata, a proposito dei dipendenti pubblici, saranno licenziati in 48 ore gli impiegati pubblici che imbrogliano sul timbro del cartellino. Mai più casi come Sanremo, ha detto Renzi. E poi lo scontro che c'è stato oggi tra Bruxelles e Roma con Juncker, il Presidente della Commissione Europea, che ha detto a Renzi la flessibilità l'abbiamo introdotta noi, e Renzi ha detto noi non ci facciamo intimidire, non ci facciamo più telecomandare dall'Europa. Petrolio e Cina oggi che affondano i mercati, con l'Europa, le borse d'Europa in picchiata. E poi l'Italia che schiera a Trapani 4 aerei MX per avere un occhio vigile sul Nord Africa, su quello che sta accadendo, ma si tratta, dice la difesa, di ricognizione, non bombardamento. E poi questa città tedesca che vieta la piscina ai profughi maschi dopo le molestie alle donne in questa piscina, ne potremo parlare anche tra pochissimo, e al via la depenalizzazione dalla patente all'ingiuria, questo decreto in cui sono introdotte varie cose, varie depenalizzazioni, il decreto del governo, il Family Day che ci sarà in piazza il 30. Contro il disegno di legge Cirinnà, mentre Renzi dice andiamo avanti anche sulla stepchild adoption. E poi l'omicidio di Lidia Macchi dopo 30 anni, questa svolta storica di cui abbiamo appena parlato. Europa 24 notte. Ritorniamo allora sullo spazio europeo a parlare della Germania, di quello che è successo, delle molestie sessuali di massa contro le donne a Colonia notte di Capodanno, una notte che sta cambiando la percezione dell'emergenza immigrazione in Europa e per alcuni aspetti anche della vita quotidiana. Abbiamo sentito ieri di una città tedesca che ha deciso di annullare il carnevale che ci sarà a febbraio, mentre Colonia per il momento lo mantiene. E poi questa città del Nord Reno-Vestfalia, Bornheim, nella quale è stato vietato l'ingresso ai profughi maschi in una piscina pubblica dopo che alcune ragazze hanno denunciato delle molestie, e sta cambiando l'intera politica tedesca sull'accoglienza dei migranti, come ci conferma la nostra Raffaella Calandra oggi, un'anticipazione del suo Euro reportage di questa settimana. Raffaella. Sì Roberta, è così, quella è stata proprio la notte che ha cambiato tutto, la notte di Capodanno con le molestie, sta cambiando, come accennavi, l'atteggiamento e la politica, la Stimmung, cioè l'atmosfera dei tedeschi e la percezione nei confronti dell'accoglienza dei migranti, e la cancelliera Angela Merkel è sempre più sotto pressione, sia da un punto di vista interno, deve fronteggiare l'opposizione interna alla grossa coalizione, soprattutto quella bavarese, che vorrebbe in particolare un tetto all'accoglienza, ma deve fronteggiare anche le contestazioni della destra più estrema, che l'accusa di aver di fatto distrutto Schengen, come sentiremo nel reportage di domani, aprendo le porte in modo illimitato ai profughi, una contestazione che le è stata mossa anche dal New York Times. E la risposta allo shock delle oltre 600 denunce per le molestie solo nella città della Nord Reno-Vestfalia di Capodanno è stato questo pacchetto di misure restrittive della cancelliera, con espulsioni più facili, più veloci, e la revoca del diritto d'asilo per chi commetta dei reati anche al di sotto di un anno. Un pugno duro che però ha trovato il plauso di Bruxelles, con il vicepresidente Timmermans che ha detto che non vogliamo tornare al Medioevo, e ha applaudito a questa linea dura della Germania. Una linea che però dall'altra parte deve fare i conti anche con questi cambiamenti nella vita quotidiana a cui tu facevi riferimento. Prima la cancellazione della sfilata dei carri in una città molto vicina a Colonia, perché non ci sono le misure di sicurezza. Oggi poi a Bornheim il divieto per i profughi maschi di entrare in questa piscina pubblica dopo un caso, diciamo, di molestie denunciate da alcune donne. Quindi in questo momento c'è un'atmosfera che è di ostilità anche nei confronti dei profughi, tant'è vero che ci sono stati anche già dei raid sia a Colonia sia a Lipsia, e quindi un po' una percezione che sta anche articolando e sta portando anche ad una modifica della stessa politica di Berlino. Infatti la stessa cancelliera ha detto che sarebbe stata pronta a rivedere quello che era un punto su cui fino adesso non transigeva, ossia la possibilità di mettere un limite all'accoglienza. Fino adesso la sua era stata invece quella della politica delle porte aperte senza un limite. Grazie Raffaella Calandra. Ciao Raffaella. Grazie a te, ciao. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. Mi sa, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, che ci tocca il freddo. Sciarpa e cappello mi piacciono, ma non li metto volentieri, caro Paolo Corazzon di Trevi Meteo, te lo dico. Buonasera Roberta, buonasera a tutti. Beh, però purtroppo stavolta davvero ci siamo, l'inverno farà sentire. Si sente dalla tua voce. Esatto, brava. L'inverno si farà sentire nei prossimi giorni. Già da domani temperature in diminuzione in tutta Italia, arriva questa aria fredda tanto preannunciata. In realtà nulla di sconvolgente, fino a oggi abbiamo avuto temperature in molte zone ben al di sopra della media, ora l'inverno appunto farà il suo dovere. Questo significa appunto temperature sì in diminuzione, ma non necessariamente col brutto tempo, anzi per il nord Italia e per le regioni del medio alto Tirreno sarà un weekend con il sole, quindi non aspettiamoci nevicate o situazioni particolarmente critiche. La neve farà però la sua comparsa sì, ma in alcune zone. Quali? Ebbene, le regioni del medio Adriatico, Romagna, Marche, Abruzzo e Molise vedranno domani qualche fiocchetto di neve, e poi tra domenica e lunedì anche il sud vedrà delle nevicate a quote relativamente basse. Grazie Paolo Corazzon. Nulla di eccezionale. Comunque, ciao, Roberta, portatore sano di sole, buon tempo a te. Ci risentiamo alle 22, ciao.